Yeah. Degne figlie d'un barone. Via silenzio ed attenzione. State il sogno, state il sogno a me. Mi sognate il fosco e il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, un contratto o che portento, sulle spalle accento accento, sulle spalle accento accento, gli spuntarono le penne, gli spuntarono le penne, ed in aria scivolò. E diceva campanile come dono si fermò, e diceva campanile come dono si fermò. Si sentiano per di sotto le campane a dindonar, dindon, dindon, dindon, dindon. non col ciccio giù di botto mi venisti a risvegliare col ciccio giù di botto mi venisti a risvegliare col ciccio giù di botto mi venisti a risvegliare che ti dico di ciò che ti dico di ciò che ti dico di ciò che ti dico di ciò che ti dico di ciò che ti dico di ciò che ti dico di ciò che ti dico di ciò che ti dico di ciò che viva Chester, rivegliar, viva Chester, rivegliar. Ma d'un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. Ma d'un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa. Quelle penne siete voi, quel gran volo leve addio. Resta l'asino di voi, ma quell'asino son io. Chi vi guarda ed è chiaro che il sovano è il genitor, il sovaro è il genitor, il sovaro è il genitor. E si fa regina, non dell'altro viverà, e di nonno una dosina tira fuori e bracerà. Un re piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un re bambolo di qua, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fedelissima regina, l'un dell'altro ti verrà, e di nonno una dosina tira fuori e bracerà. Un re piccolo qua, un re bambolo là, un re piccolo qua, un re bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un re piccolo qua, un re bambolo là, un re piccolo qua, un re bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'un dell'altro ti verrà, e di nonno una dosina tira fuori e bracerà, e la gloria mia sarà. Sappiate che fra poco il principe era vero, che son tre ricche della delizio, vicino a mezzo miglio, venuta la metà, sceglie una sposa, ci metto ad invito, un frate arriverà per prendere, e la scelta la più bella sarà. Figlie, che dite, tre principon, quantunque non conosca, sceglierà l'invito sposa più bella. Io cavo in svenimento. Cenerentola presto, portami il mio caffè. Discerei, metà del mio palazzo è già crollata e l'altra in agonia. Fatevi onore, mettiamoci un puntello. Figlie, state in cervello, parlate in punta e virgola per carità. Pensate ad abbigliarvi, si tratta niente men che in principarvi. Thank you. dunque deserto. Amici, nessun risponde. Questa simulata sembianza ne belle osserverò, ne viene alcuno, eppur vi di speranza insapiente li d'oro, che qui saggia e vezzosa degna di me trovar saprò la sposa. Sposarsi e non amar legge tiranna, e nel fior dei miei giorni alla difficil scelta mi condanna. Cerchiamo, vediamo. Che cos'è? Che batti il cuore? Forse un mostro son io? Sì, no, signore. Un soave Oh, sperar e fa sperar. Che cos'è? Questa voce che cos'è? A ponente da levante, a sciroppe tramontana, non ho canno solo istante, tutto tutto tocca a me. Quell'accento qui sembiante, è una cosa sembrana, la mia pelle in questo istante, c'è più bello tra di me. Da semplice scudiero il core delle femmine meglio svelar saprò. Dandini intanto recitando la principessa. Domando un milion di perdoni, dica e sua altezza il prince. Arriva! E quando? Fra tre minuti. Tre minuti? Ah, figlie, sbrigatevi! Che serve? Le vado ad affrettar. Scusi. Con queste ragazze benedette, un secolo e un momento, alla toilette. Che buffone! Qual fragor, non mi inganno, ecco Dandini. Ecco Dandini. Thank you. che bel quadro, che bocchino, che ciglia. Siete bontà e non la meraviglia. Già, tali spada, tale figlia. Altezza dalle altezze, che dice, mi confonde, debole, vere figure etrusche. Dico bene, comincia a dirle grosse. Io recito da grande, grande, essendo grandi nella sparata. Ma il principotto, che non vi scappi, attente. Or dunque, seguitando quel discorso che io non ho cominciato, o dai miei lunghi viaggi ritornato, ed il mio papà trovato che fra i conti mi capita un volato, e spirando ordinato che mi sta col cambiale si è sposato, son diseredato, fatto un'invita a tutti vicinato, trovando buco nel delicato per me l'ho destinato, detto, detto! E adesso prendo fiato, che la quenza norcina, balla ragazza, se vi degnate, inciambellato il braccio ai nostri cavalieri, il legno è pronto. Andiamo qua, e che lenta, non tardate a venire. Che fai tu qui? Il cappello ed il bastone. Ah, sì, signor. Perseguitate presto con i vie baronali, i magnifici miei quarti reali. Monti in carrozza e vengo. E pur colei vorrei veder. Lasciami! La sgrida! Il tempo vola! Che vorrà? Vuoi lasciarmi? Non posso più frenare, mi hanno una strada. Vi si farà, vi si farà, vi si farà, vi si farà. Vi si farà, vi si farà, vi si farà. 聆听舞蹈与旋律的对话， 请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 io sono l'ex dal tutto niente precipita d'un tratto. Veramente ci ho fatto una bella figura, scusi la mia premura, ma quelle due ragazze stanco la febbre a freddo. Si potrebbe sollecitar la scelta. È fatta, amico. È fatta, ah, per pietà di che parlate, è fatta, e i miei germogli in queste stanze a vegetar verranno. Voi lo sapranno, per ora è un gran segreto. E quale, e quale, Clorindina o Tisbetta? Non giudicate in freddo. Lo dica d'un papà. Ma silenzio, si sa. Via, dica presto. Non ci ho dal culo. In aria non si vede una mosca. E un certo arcano che farà sbalordire. Sto sulle spine. Vogliamoci a sedere. Presto, per carità. Voi sentirete un cosa assai bizzarro. Chi volesse maritarsi con me? Mi raccomando! Ma si lasci servir! Stia sigillato quanto udrete dalla bocca mia! Io tengo in corpo una segreteria! D'importanza, un arcano interessante, io vi devo palesar. È una cosa stravagante. Mi farà strasecolar un segreto d'importanza. È una cosa stravagante, mi farà strasecolare, mi farà strasecolare. Senza batter, senza battere le ciglia, senza manco dare il fiato, io mi pongo ad ascoltar. Stava qui pietrificato. Ogni sillaba a contar. Senza banco, rarreggiato. Stava qui pietrificato. Ogni sillaba a contar. Ogni sillaba, a contar. L'uomo saggio e stagionato sempre meglio ci consiglia, se sposassi una sua figlia, come mai non la tratta? Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza, mi stia dunque sua eccellenza, bestia altezza ad ascoltar, ad ascoltar, ad ascoltar. Abbia sempre prontezza la 30 serpi piena gala, 116 cavalli, 116 cavalli, duche, conti e marescialli, addottine e convitati, pranzi sempre congelati, poi carrozze e poi bombe. Vi rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosta gran signori, fatto sempre servitori, me ne vado sempre a me. Mi corbella del brevetto, questo dunque è un romanzetto, questo dunque è un romanzetto. Del principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, ma strappata al fin la maschera, io ritorno al mio mestiere, io ritorno al mio mestiere. Son Dandini il cameriere, son Dandini il cameriere. Rifar letti, spazzar abiti, far la barba, e pettinar, far la barba, e pettinar. Di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il vero principe. Viene da conto, o lo si ingomoli, non farà niente, o lo si ingomoli, non farà niente, ma parta subito. Il mantire, lo partirò. Le partirà. Solo parole. Brillante pastore, ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo, ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo. Non partirò, non partirò. Le partirà, le partirà. Ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo. Brillante pastore, le partirà. Le partirà, le partirà, le partirà, le partirà, le partirà. Non partirò, non partirò, non partirò, non partirò. Tengo le cene, proteggo le cene, un po' trapasso, ora andiamo da che passo passo, che passo passo, fra l'altro fa, la gente al mondo, fate del mondo, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che cosa, se che giorno. Ma ve l'avevo detto! Ma cospetto, cospetto, similissime sono, affatto, affatto. Quella è l'originale, questo è il ritratto. Hai fatto tutto! Tutto? Perché quel ceffo brutto? Voi mi fate così? Perché, perché? Per una certa strega che rassomiglia a te. Thank you. Si figuri, mio padrone. Non senza perché venite qua, la sposa figlia è dietro, voi sarà. Ehi, presto Cenerentola, porta la sedia nobile. No, no, pochi minuti, altra carrozza pronta ritornerà. Ma che mi pare? Che sbrigo, Cenerento! Son qui. Danna al principe. Bestia. Eccolo lì. Oh, audace e chi ti insegna a star qui tra tante robe. Vai, cucina serpentegna, non tornar mai più di qua. Vai, cucina serpentegna, non tornar mai più di qua. Vai, cucina serpentegna, non tornar mai più di qua. Al fin, e su curva a giare, ecco l'alo a corno, al fi del fine, e su curva a giare, ecco l'alo a corno. E il gioca adora est, e il gioca adora est, in aria rimbalza. Sarà felice il caro alunno, in trono trionfa la bontà. Thank you. altezza, a voi mi prostro. Ne mudro mai chiama la figlia vostra. E le orgogliose a prence io cado ai vostri piedi, le antiche ingiurie mi svanir dalla mente. Sul trono io salgo e voglio stare vino giur del trono, e sarà mia vendetta, e sarà mia vendetta. Il lor perdono. 感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的节目。 Oh, man. domanderemo, domanderemo, domanderemo, li cercheremo, li troveremo, li cercheremo, li troveremo, la voleremo, domanderemo, domanderemo, domanderemo, domanderemo, domanderemo, domanderemo, domanderemo, sì, sì. C'è speranza, credo di timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar. C'è speranza, credo di timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar. Sì. Dolce speranza, credo di timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar. Voleremo, domanderemo, domanderemo, amore, amore, vada a guidar, voleremo, domanderemo, domanderemo. Ragazze, stanco la febbre a freddo, si potrebbe sollecitar la scelta. È fatta, amico. È fatta. Ah, per pietà, dite, parlate. È fatta. I miei germogli in queste stanze a vegetar verranno. Voi lo sapranno. E ora è un gran segreto. E quale? E quale? Clorindina. O ti svetta? Non giudica di me. Lo dica d'un papà. Ma silenzio. Sa via, dica presto. Non ci ho d'alcuno. In aria non si vede una mosca. E un certo arcano che farà sbalordire. Sto sulle spine. Vogliamoci a sedere. Presto, per carità. Voi sentirete un cosa assai bizzarro. Chi volesse maritarsi con me? Mi raccomando! Ma si lasci servir! Sia sigillato quanto udrete dalla bocca mia! Io tengo in corpo una segreteria! Un arcano interessante, io vi devo palesar. È una cosa stravagante. Mi farà strasecolar un segreto di importanza. È una cosa stravagante, mi farà strasecola, strasecola, mi farà strasecola, strasecola. Senza batter, senza battere le ciglia, senza manco del fiato, io mi pongo ad ascoltar. Stanno qui pietrificato. Ogni sillaba a contar. Senza banco, raro reggiano. Stanno qui pietrificato. Ogni sillaba a contar. Ogni sillaba, ogni sillaba a contar. L'uomo saggio e stagionato sempre meglio ci consiglia, se sposassi una sua figlia, come mai lo da trattare? Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza, mi stia dunque sua eccellenza, bestia altezza ad ascoltar, ad ascoltar, ad ascoltar.

quella è l'originale, questo è il ritratto. Hai fatto tutto! Tutto! Perché quel ceffo brutto? Voi mi fate così! Perché, perché? Per una certa strega che rassomiglia a te! Sulle tue spalle quasi mi sfogherei! Povere spalle mie! Cosa ci hanno che fare? Oh, fa il tempo! Mi faccio un temporale! Altro che temporale! Un fulmine vorrei che cenerisse il cameriere. Ma dite, cosa è accaduto? Avete qualche segreta pena? Sciocca, va là, va a preparar la cena.